Allora, San Giovanni Rotondo, convegno sulle parole che curano, o anzi, le parole nelle pratiche di cura. Sono presenti circa 200 persone, di cui un certo numero di psicologi, infermieri e soprattutto poi fisioterapisti e terapisti di riabilitazione. Allora, iniziamo presentando il nostro modo di lavorare. Cominciamo da questa diapositiva, ecco qui, qui si vede un signore e due alberi. Questo signore ha in mano delle foglie. Questo signore rappresenta il Buddha che teneva in mano delle foglie, chiamò i suoi allievi e disse: sentite, secondo voi ci sono più foglie nella foresta o nelle mie mani? E i suoi allievi dissero: beh, penso nella foresta, certo. E lui disse: esatto, bravi, fantastico, è proprio così. Ci sono molte più conoscenze di quelle che io vi di cui vi parlo, di quelle di cui vi parlerò io. Le conoscenze di cui parlerò io sono poche, come quelle delle mani delle mie foglie, ma sono quelle essenziali per sciogliere la sofferenza. Quindi il Buddha aveva questa capacità di dire solo ciò che è essenziale, occuparsi di ciò che è importante per l'essere umano. E cosa c'è di più importante? Di occuparsi della sofferenza, delle cause della sofferenza e della fine della sofferenza. Sono passati 2500 anni, 2600 quasi, e questo tema è ancora sul tappeto. Oggi ci occupiamo di pratiche di cura. Perché curiamo qualcuno? Perché ci facciamo curare? Beh, perché c'è del dolore, c'è della sofferenza. Allora, una parte di questo dolore, una parte di questa sofferenza è ineliminabile. Ma c'è una grossa parte che invece si può sciogliere. Sì, anche nel dolore fisico, oggi abbiamo delle pratiche di cura che consentono di aiutare persone che una volta erano inaiutabili, oggi invece si riesce anche senza fare sentire gran dolore, per esempio un'operazione alla gamba, oggi si fa con l'anestesia. Poi però rimane tutto il tema del dolore che si accompagna al dolore fisico, dolore psichico, tutta la sofferenza che accompagna non agli eventi della vita, la morte di un parente, la morte di un figlio, la morte di un coniuge, la morte. E si accompagna a questi eventi di per sé dolorosi e anche questa sofferenza che noi distinguiamo come sofferenza nevrotica, anche questa può essere in gran parte sciolta o eliminata. Allora, quello di cui ci occuperemo in queste nostre conversazioni sarà come possiamo aiutare le persone a sciogliere la sofferenza innecessaria e facilitare la guarigione fisica. E passiamo alla seconda diapositiva. Qui vediamo due persone, due piccoli soli, i due piccoli soli sono le loro anime. Per anima di una persona intendiamo la sua essenza, il punto centrale, il nucleo vitale della persona stessa. I greci avrebbero detto la psiche, ma ancora di più la sua virtù centrale, la rete. Essenza. L'essenza noi sappiamo. Una persona non si presenta direttamente, raramente una persona si presenta nella sua essenza, di solito è ricoperta da maschere, substrati su strati. Chiamiamo queste maschere copione di vita, l'insieme degli atteggiamenti, dei ruoli che abbiamo assunto nella vita per rispondere alle richieste dell'ambiente. Ma la nostra essenza è qualcosa di diverso. L'essenza è chi siamo veramente. Citando Nietzsche, divieni chi sei, cioè l'essere non è qualcosa che c'è e basta, devi diventare chi sei, cioè lo devi far emergere. Prendiamo un seme, il seme di una pianta, dentro il seme di una pianta è già contenuto l'albero, mettiamo, però l'albero non c'è mica ancora, c'è solo un seme, questo seme potrebbe crescere 5 centimetri e poi trasformarsi in una specie di arbusto, ma è riuscito perché c'è finito sopra una pietra. Ecco. Diventare chi si è significa portare a compimento il progetto che c'è dentro noi stessi. Citando Aristotele possiamo dire, chiamare il termine entelechia, il fine è in teleos, teleos vuol dire fine, in, all'interno. Dentro di noi c'è il fine. Il nostro compito è realizzare questo fine che c'è già dentro. Ok, bene, quando due persone si incontrano attraverso le loro anime, Ecco qua. Cosa accade? Vedete questa freccia gialla che va verso l'alto, si crea un vortice positivo, la relazione produce cose nuove. È creativa, è veramente energia vitale pura. L'energia vitale si può tradurre nei termini di energia creativa, la vita è creazione. Due grandi forze nell'universo. L'entropia porta alla dissoluzione, al caos, e la negentropia che porta invece alla creatività, che porta alla creazione di forme nuove. La vita è creazione di forme nuove. Quindi la creatività e la vita sono inscindibili. Sono due aspetti dello stesso fenomeno. Bene, quando due persone si incontrano attraverso le loro anime, quello che accade è la nascita di qualcosa di nuovo. Intanto, anziché due, diventano quasi una. Non necessariamente un uomo e una donna, possono essere anche due uomini, due donne, un uomo, un bambino, non importa. Quello che conta è che le due menti si uniscono in una mente più grande. E questa mente più grande è più intelligente, più creativa della mente singola. Che emozioni si provano quando viviamo una relazione così? Beh, gioia, entusiasmo, pienezza, felicità. Okay. Adesso guardiamo invece la terza diapositiva, qua. Due persone si incontrano, ma questa volta si incontrano attraverso il loro ego o la loro piccola mente. Quindi praticano tra di loro quelle che noi chiamiamo inquinanti, l'orgoglio, la presunzione, la fede negativa, la lamentela, la pretesa, l'accusa. Ecco. Cosa accade dell'energia vitale? L'energia vitale va verso il basso, cioè l'energia che si crea tra le due persone non crea qualcosa di nuovo, ma dissolve addirittura quello che c'era. Cioè le persone escono da relazioni così più povere di prima. Perché qualcosa hanno perduto in queste relazioni, hanno perduto la felicità, hanno perduto la gioia di vivere, hanno perduto il senso di pienezza, di appartenenza. Le prime di cui abbiamo parlato sono relazioni produttive, relazioni d'amore, le seconde sono le relazioni distruttive. Nelle relazioni distruttive, appunto, dominano le emozioni distruttive, quindi la rabbia, la tristezza, la paura, il risentimento e così via. Allora, sembra che il compito fondamentale degli esseri umani dovrebbe essere quello di saper ben distinguere tra il primo tipo di relazione e il secondo tipo, e saper come innescare relazioni del primo tipo e tenersi lontano dalle relazioni del secondo tipo. Vediamo una diapositiva, l'altra successiva, numero 4, troviamo questi termini: comunicazione, complessità, auto-organizzazione, salute. Allora, riprendendo i due tipi di relazione, dov'è che la comunicazione funziona davvero? Nella prima. Nella prima, dove c'è la freccia che va verso l'alto. Funziona nel senso che comunicazione viene, tra le altre ipotesi possibili, da cum munus, dono, mettere insieme un dono. La comunicazione fa sì che due persone, due menti, diventino una a livello più grande. E stiamo andando verso la grande mente. Un corpo umano può dirsi sano. Un animale può dirsi sano quando la comunicazione all'interno, tra gli organi, tra i tessuti, tra le cellule, funziona bene. Quindi tra i vari sistemi, sistema immunitario, sistema endocrino, sistema nervoso. Ecco. Bene, quando ci sono dei disturbi nella comunicazione, compare la malattia. Bene, la comunicazione quindi è alla base dei sistemi complessi e è alla base della auto-organizzazione. Un sistema può dirsi, sì, auto-organizzazione, sappiamo cosa significa auto-organizzazione. Un sistema non ha bisogno di forze dall'esterno, un sistema vivente non ha bisogno di forze dall'esterno per auto-organizzarsi. Fa parte dell'entelechia avere il principio di auto-organizzazione. Non è che quando nasce un gattino bisogna andare lì e mettergli dentro qualche informazione perché diventi un gatto adulto. Semplicemente ha bisogno di un contesto di opportunità per crescere. Certo, se lo metti in una piscina non è il suo contesto, se lo metti a 20.000 metri e ce lo lasci e probabilmente precipita giù, anche quello non è il suo contesto. Ma se lo lasci in un giardino, se lo lasci in un posto tranquillo con una mamma gatta possibilmente vicino, vedrete che il piccolo saprà benissimo come fare a crescere ed auto-organizzarsi. Dicevo prima che la salute è buona comunicazione, è comunicazione, buona comunicazione. Tra la differenza tra la nevrosi, la psicosi, è una persona che sta molto bene dal punto di vista mentale, che la persona che sta molto bene ha un'ottima comunicazione interna, sia fisica sia intrapsichica, mentre la persona nevrotica ha dei blocchi nella comunicazione, è preda di conflitti, e lo psicotico è preda di conflitti ancora più gravi, quindi di blocchi alla comunicazione. Adesso vediamo questo strano disegno. Cosa diavolo fa venire in mente? Ecco qua. Ebbene, vedete delle molle qua. Una molla in posizione più o meno normale, una molla compressa e una molla che viene rilasciata. Quindi, cosa accade quando nella nostra vita incontriamo un problema? È come se noi cominciassimo a caricare una molla, fino a che si schiaccia. Così, cosa vuol dire? Che se ci troviamo di fronte a qualcosa che non sappiamo risolvere, mettiamo un problema affettivo, un problema relazionale, un problema sul lavoro, la nostra mente comincia a cercare la soluzione e ci mette energia e gira, gira, gira. Magari non la trova la soluzione, ci si ingroviglia sempre di più, però ci continua a mettere energia. Questa energia compressa, eccola qua, la molla. Cosa succede di questa molla quando finalmente può trovare una via d'uscita? Puff, esplode, eccola qua, la molla, vim, scarica tutta la sua forza fuori. Benissimo. Questo è un modo di intendere i problemi. Il problema, le difficoltà della vita, sono modi in cui carichiamo la nostra energia. Questa energia caricata diventa un deposito che è tenuto dentro e che se non viene rilasciato fa stare sempre peggio. Ma nel momento in cui si trova una via d'uscita, è come dire, è benzina di cui disponiamo, è fuel, è risorsa. Ecco perché noi diciamo che dove c'è una storia di problemi c'è sempre accanto una storia di risorse, cioè energie bloccate pronte a essere rilanciate. Ecco. Così quando una persona si trova in un grave problema di salute o un grave problema relazionale, nel momento in cui intravede una possibilità, ecco allora che tutte questa energia compressa si ridireziona e va, ecco. E dà più forza di una persona che invece non ha compresso la molla. Ok? Benissimo. Ecco qui c'è il termine, qui viene rappresentato quello che vi dicevo prima, l'entelechia. L'entelechia cosa vuol dire? Che dentro, ecco, lo vedete qui sulla sinistra, l'entelechia c'è un seme, un organismo va verso la sua autorealizzazione. Ma se c'è un blocco, vedete qua sopra, cosa fa? Si carica un serbatoio di energia. E qui è la cosa più interessante. Quando abbiamo energia caricata, questa energia caricata può essere un ulteriore problema, un aggravio del problema o la base della soluzione. Se noi prendiamo questo problema e lo continuiamo ad analizzare dal punto di vista dell'ego, quindi pretese, accuse, lamentele, questa carica di energia continua a comprimersi, non si scarica e fa malare sempre più la persona. Nel momento invece che vediamo tutto il problema dal punto di vista dell'anima, cioè dell'opportunità, ecco allora che l'energia viene rilasciata e la persona si sente volare verso il cielo. Ne parleremo poi dopo. Comunque, in due parole vi posso accennare che questo accade anche nelle famiglie. Prendiamo una famiglia in cui ci sono delle problematiche psichiche. Due, tre, quattro generazioni. Quarta generazione nasce un figlio e naturalmente sta molto male perché vive in una famiglia particolarmente disturbata. Chiaramente questo figlio non è un ragazzino normale, è un po' diverso, perché dentro di lui c'è una grande molla compressa. La sua anima sta cercando una soluzione, c'è molta forza in questa ricerca di soluzione. E c'è tanta forza che se viene me messa al servizio dell'ego, questo ragazzino viene distrutto e la storia della famiglia diventa con finale tragico. Mentre se questo ragazzino ha l'opportunità, per la fortuna di incontri giusti o per qualunque altra ragione che potrete immaginare, di cominciare a osservare la storia della sua famiglia e la sua storia dal punto di vista dell'anima, allora trova dentro di sé la forza per reagire non solo per sé, ma per tutte le persone che si trovano nella sua condizione. E questo è un passaggio che poi analizzeremo dopo. La vera cura di sé è nell'uscire dall'isolamento e nel sentirsi parte di qualcosa di più grande. Se io parlo del mio problema, le mie difficoltà, è il mio, tutto mio, mio, mio, mio, io sono dentro la logica dell'ego. Soltanto nel momento in cui io comincio a vedere che le mie difficoltà, i miei problemi sono semplicemente partecipazione a una danza molto generale, collettiva, impersonale di come si costruiscono i problemi umani. Come si fa a costruire un problema di gelosia? Non è mica tuo, non è mica suo, è un problema che gli esseri umani hanno imparato a costruire. Chiunque partecipa alla danza della gelosia soffre nello stesso modo. Liberare se stessi dalla danza della gelosia non è facile. È più facile se cominci a vederne la struttura generale e a scoprire quali sono le portanti di questo problema, gli elementi, l'intero processo, che non è solo individuale, ma è collettivo, sempre regolarmente collettivo. A quel punto, quando ti vuoi liberare dalla tua gelosia, in realtà stai diventando un liberatore generale della gelosia sul pianeta. È lì che trovi la forza, è lì che trovi una forza inesauribile. E su un altro principio qui, è l'enantiotromia, è un termine che viene da Eraclito, ma poi è ripreso da Jung. L'enantiotromia è proprio questo. Mettete qua, non so, libertà a questo polo e dall'altra parte giustizia. Mettiamo che c'è un contesto storico, un paese dove si punta tutto sulla libertà. Libertà, libertà, libertà, libertà. E allora niente, bisogna essere liberi, bisogna essere liberi. E quindi non ci devono essere controlli, le leggi devono essere il più aperte possibile, non ci devono essere vincoli. Ecco, tutti devono poter fare, per esempio, in economia quello che desiderano, avanti così. Viene il giorno che le forze della giustizia, le forze per esempio della solidarietà sociale, compresse, tutta l'energia compressa, finalmente riesplode. E allora il paese cambierà rotta. Un esempio molto chiaro, diverso da quello che ho appena detto, al contrario, si è avuto nell'Unione Sovietica, dove prima c'è stata una compressione delle libertà individuali e poi dopo, e quindi col collettivismo, col comunismo, con le tirannie dei vari Stalin e via, e che cosa è successo dopo? A un certo punto l'enantiodromia, cioè si è andati verso liberismo più sfrenato. Le religioni non erano più consentite, il nazionalismo era sparito, che cosa sono comparse? Le religioni, il nazionalismo. Questo è un principio generale della struttura psichica, quindi principio che fa sì che quando una istanza è compressa, pian pianino acquista forza e cambia la direzione. Enantiodromia infatti significa dromia corsa, enantio opposta, nella direzione opposta. Allora, abbiamo parlato prima di inquinanti, non abbiamo parlato di inquinanti, appena accennato, sì, inquinanti barriere. Allora, nel primo tipo di relazioni, quella evolutiva, non vengono praticati inquinanti barriere. Nella seconda relazione vengono regolarmente praticati inquinanti della mente e barriere. E barriere nella comunicazione. Cosa sono gli inquinanti della mente? Sono quelle forme mentali che offuscano la percezione della realtà. Che vuol dire? Ad esempio l'orgoglio. Se sei orgoglioso tu non vedi la realtà, perché la vedi filtrata attraverso attraverso l'orgoglio. Se sei permaloso, io dico una cosa, tu la pigli storta. Io in realtà non volevo mica offenderti, ma tu ti offendi. Se hai fede negativa, ogni cosa che ti va storta la pigli come segnale del fatto che Dio ti vuole male, insomma, no? E quindi o vai nella bestemmia, o vai nelle imprecazioni, o così via. Gli inquinanti della mente quindi sono dei distorsori della percezione della realtà. E le barriere? Le barriere sono ostacoli nel flusso della comunicazione. Per esempio interrompere la conversazione, sovrapporsi, parlare a fiume, come sto facendo io adesso, per esempio, un'ottima barriera. Dopo un pochino mi mandate tutto in quel paese, perché non ne potete più, è ovvio. Ma pare che nel nostro mondo di monologhi il dialogo sia rarissimo. Okay. E quindi quando per esempio si va a fare una conferenza e si dice a qualcuno beh intervenite, non interviene nessuno, quasi quasi mai, perché siamo abituati a un rapporto tra monologhi, tra individui che parlano, il dialogo, cioè dialogos, la parola che va da uno all'altro, proprio quello è rarissimo. Bene, le barriere ostacolano la comunicazione, appunto vi ho detto l'interruzione, parlare a fiume, la svalutazione, sminuire, il criticare, il giudicare. Tu mi dici, guarda, sono andato a fare un bellissimo viaggio, guarda, fantastico, sono andato in Cappadocia. E ti dico, e chi ci sarà mai laggiù? Ma no, guarda, sono andato, delle rocce bellissime, a forme strane di funghi, di cose, come c'erano dei monasteri. Cioè, beh, anche in Italia è pieno di monasteri. E poi scusa, ma la Cappadocia la conoscono tutti. Quindi te che volevi dirmi qualcosa sulla Cappadocia, ti perdi ogni interesse per continuare a parlare. Ti dico, ma è come ti dicessi, ma cosa mi dici? Ecco. Quindi questo è un modo per creare tra me e te una barriera. Allora, inquinanti e barriere sono l'alimento delle relazioni distruttive. Stranamente, la psicologia se ne è occupata abbastanza poco, perché la psicologia, almeno in Occidente, quasi è iniziata con la psicologia del profondo, da Jung, Freud, Jung, la psicanalisi, poi il comportamentismo, il cognitivismo. Sulle barriere si è detto poco, non è che non c'è assenza di studi, ma non così tanto come su altri settori. E probabilmente questo è dovuto a una distorsione del modo di percepire la psiche umana, e quindi è un distorsore che appartiene alla nostra cultura psicologica. Chiaramente, io che vengo dalla musica vedo le cose in modo completamente diverso. Per me l'armonia tra due persone dipende da come scambia, dal tipo di scambi che fa. Capisci, se tu sei un pianista, io sono un violoncellista e suono con te. Non sono poi così interessato a sapere cosa ti è successo da piccola, ma sono interessato fondamentalmente al fatto che se suoni con me andiamo insieme. Cioè, se io faccio un crescendo tu la sostieni, se faccio un diminuendo, se faccio un ritardando e così via. Cioè, respiriamo nello stesso modo la musica. Se questo non accade, è chiaro che io e te non è che suoneremo molto volentieri, ecco. Inoltre, ci sono tanti livelli del modo di suonare. Si può suonare in modo corretto, in modo decoroso e decente, si può suonare in modo più appassionato, si può suonare a livelli sublimi, cioè livelli in cui veramente le due persone diventano uno, le tre persone diventano uno. Bene, questa capacità di passare da uno, due, tre e tre che diventano uno è lo scopo di questo studio. Come si fa a sciogliere gli inquinanti e le barriere che esistono nella musica, come esistono nella danza, come esistono in tutte le nostre pratiche della vita, compresa quella in cui utilizziamo la parola e il dialogo. Parlavamo l'altro giorno di alcune barriere che sono di solito su cui si riflette poco, che sono i segnali metacomunicativi. Ad esempio, mentre io ti parlo, no? A un certo punto vedo che ti arriva ti stacchi, probabilmente ti alzi e vai a fare un'altra cosa. Ecco, non c'è niente di male perché magari vai a chiudere il gas. E il gas magari era importante che lo chiudessimo perché la nostra conversazione comunque sarebbe finita in ogni caso se non chiudevi il gas perché forse stavamo per saltarti l'aria. Però mentre ti alzi, se tu non mi dai nessun segnale del fatto che stai andando a chiudere il gas, chiaramente io la posso percepire come squalifica, cioè che quello che io non esisto come tuo interlocutore. Improvvisamente sono divenuto nullo, sono diventato trasparente. Ora la squalifica, secondo gli studi della pragmatica e della comunicazione umana, porta a una disconferma del sé ed è alla base di relazioni gravemente patologiche. Quindi potremmo vedere le barriere della comunicazione come più o meno gravi a seconda che generano un rifiuto della persona o addirittura una squalifica: la persona non c'è, non esiste. Ecco qua, questa è un'altra diapositiva. In questa diapositiva si vede una persona, quella a sinistra, che immette nella conversazione tutte le possibili qualità dell'essere di cui è capace: humor, gioco, serenità, dolcezza, creatività, ecco. E l'altra persona invece inizia a praticare pesantemente le barriere. Ecco, le barriere, guardate dove vanno a portare, vanno verso l'entropia, cioè la conversazione tra i due diventa una conversazione entropica, cioè pochissimo interessante. Ora, se la persona qui di destra continua a praticare le barriere, secondo voi chi dei due ha la prevalenza? È sicuramente quello che pratica le barriere, perché le barriere sono aiutate dalla forza di gravità psichica, che è l'entropia psichica, cioè l'indifferenziato. Noi creiamo qualcosa, cioè generiamo un'organizzazione psichica più elevata, grazie appunto all'energia vitale creativa, cioè autopoietica. Quando invece pratichiamo barriere o inquinanti, stiamo andando verso l'indifferenziato, verso il caos. E potrete dire, ma perché questa persona qua pratica le barriere anziché le qualità o gli inquinanti? Certo che non vi posso mica rispondere così su due piedi, però Perché, per esempio, perché è abituato così, perché in famiglia da loro si fa così, perché sono 350 anni che nella sua famiglia si pratica l'interruzione, la sovrapposizione, la minaccia, le accuse, le lamentele, la svalutazione. Allora è abituato così, ha imparato quella lingua e la pratica, così come ha imparato l'italiano, il turco o il boscimano. Potrebbe aver imparato anche il boscimano. Okay. Ma ci può essere un'altra ragione molto sottile. Guardate, vedi questa freccia dove va verso il basso? E questa freccia va verso l'alto. Se prendiamo questa relazione come una relazione in cui si gioca il potere, chi dei due vince? Chi tira verso il basso? Sempre, regolarmente. Quindi una delle ragioni della distruttività umana è questa, che la distruttività paga a livello di potere assai più della creatività. È molto più facile distruggere una casa che costruirla. Ecco qua, qui abbiamo un bel elenco di barriere, interrompere, sovrapporsi, parlare a fiume, ma anche distrarsi. Per esempio, sto parlando, te pensi a tutt'altro. Non ascoltare, oppure seguire il proprio pensiero. Ci sono persone che non ascoltano proprio. Infatti interrompono perché a un certo punto gli è venuto in mente qualcosa e dicono quella. Non stanno con l'altra persona che parla, ma stanno con se stessi che sta parlando in risposta dell'altro. E dopo però intervengono. Poi l'altra è mettere in dubbio, no? Dico una cosa, guarda, adesso siamo in un momento di grave crisi finanziaria. Tu dici, ma no, assolutamente, perché, ma per quale dici? No, ma guarda che come fai a dirlo? Ecco. Quindi mettere in dubbio, screditare, contraddire. O svalutare, sminuire, come ho detto prima, smorzare. Smorzare è una barriera fantastica che consiglio a tutti perché è molto sottile. È anche difficile da riconoscere. Perché tu torni a casa, ti incontri col tuo partner e gli dici: guarda, oggi ho contratto questa persona, abbiamo parlato di questo e quest'altro. È successo questo, ci abbiamo questo e quest'altro progetto, sarà una bella cosa. Sì, eh sì, te, certo, te hai sempre dei progetti in testa. Te che avevi questo entusiasmo, questa forza, a un certo punto ti senti la terra mancare sotto i piedi, però l'altro non ti ha dato un pugno sul naso, non ti ha infilato un coltello in una coscia, ti ha semplicemente aperto lo spazio tuo mentale, ci ha costruito un buco e lasciato che la tua energia vitale potesse uscire, così che ti ha depauperato della tua energia vitale. È un furto di energia. È un furto di energia. E tu mi potrai dire, no, ma magari l'altro era stanco. E allora torniamo ai segnali metacomunicativi. Se tu sei entusiasta e l'altro è stanco, o ha un fin di vita, può succedere, improvvisamente stava bene, poi in fin di vita ti dice. In fin di vita però se gli rimane ancora la possibilità di parlare, perché potrebbe in 5 minuti essere in fin di vita, in coma, e allora il coma è difficile da segnali metacomunicativi, ma mettendo che la persona non sia in coma, potrà sempre dirti: guarda, sono felice che tu sia così contenta, capisco quello che sta succedendo, tieni conto che adesso in questo momento io sono proprio in preda a, per esempio, la tristezza, la rabbia, la paura, a una stanchezza irreversibile, ecco, a qualunque cosa, ma ti avviso. E allora se ti avviso tu sei serena, perché non ti sto rubando l'energia. Frequentando diversi ambienti, ho frequentato tra l'altro anche dei luoghi dove, beh, non, luoghi dove abitano persone anziane fin di vita proprio. Mi capitò una volta di tenere in mano la mano di un morente in ospedale, ero andato a trovare qualcuno, non mi ricordo più, quest'uomo era solo, vedevo che c'aveva un affanno, gli ho preso la mano e ho respirato insieme a lui e questo aveva sempre più così. Cioè, sapeva, e pian pianino ha fatto quel che doveva fare. È morto. È morto, ma non ha lasciato. Non c'era niente di drammatico in questo. Non creava nessuno. Quest'uomo semplicemente è morto, ha finito la sua vita. Si è spento, io l'ho accompagnato, io ero sereno, lui era sereno. Potrei parlarvi di tanti episodi in cui ho visto persone che non avevano problemi, fare di piccole cose dei problemi giganteschi, altri avere dei problemi enormi. e risparmiare gli altri dal peso di portarli, di condividere. Ok, bene, queste sono le, adesso non vi sto a leggere tutte queste barriere qui, che potete tranquillamente vedere.